in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi è veramente un'emozione vedere queste fotografie sulle prime pagine dei giornali, sono veramente su tutte ed è naturalmente, mi riferisco alla foto della stretta di mano tra Raul Castro e Barack Obama. Forse dipende un po' dall'età che si ha, però insomma sembra veramente una fotografia storica, unica, una volta tanto un aggettivo usato a proposito, secondo me. E quindi vediamo il Corriere della Sera che ha appunto questa foto con Obama che è molto più alto di Raul non lo sta guardando negli occhi, però la stretta di mano è forte. Il titolo: Cuba, Obama abbatte il muro. E c'è un curioso articolo di Sergio Romano, dico curioso perché sappiamo che insomma questo successo diplomatico di Obama arriva dopo l'altro successo diplomatico che è l'inizio di un accordo, di un disgelo con l'Iran, e Sergio Romano già gliene propone un altro. E nell'articolo che poi prosegue a pagina 3, Sergio Romano scrive: il traguardo degli Stati Uniti è riavvicinare l'intera America Latina. Poi naturalmente tutti gli approfondimenti sulle questioni legate al DEF che avete sentito anche nel GR, che vedremo meglio sul Sole 24 Ore, e poi tutti gli aggiornamenti sulla sparatoria che c'è stata a Milano mercoledì scorso al Tribunale di Milano, con ieri il tentativo di interrogare l'assassino, che però ha avuto un malore, ma appunto ci sono in tutti i giornali pagine e pagine su questa vicenda. La Repubblica, anche qui la foto è la stessa, in questo caso forse presa da un'angolazione leggermente diversa, però la stretta di mano è quella. Il titolo: Obama e Raul Castro voltano pagina, è una nuova era, guerra fredda finita. Moltissimi gli approfondimenti, con un articolo di Alberto Flores d'Arcais da Panama, un commento di Federico Rampini da New York e poi ancora tante altre analisi. L'intervista che Repubblica ha in esclusiva è al neo ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio, che sapete era sottosegretario fedelissimo di Matteo Renzi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio da pochi giorni, segretario alle infrastrutture al posto del dimissionario Maurizio Lupi. Il titolo dell'intervista: basta grandi opere, solo lavori utili. Anche sulla Repubblica, poi dalle pagine 14 e 15, tutti gli approfondimenti sulla sparatoria di Milano. Ma vediamo appunto il Sole 24 Ore, perché sapete che ieri il Sole 24 Ore ha dato in anteprima la notizia che le richieste per applicare il Jobs Act fossero state troppe, ci sarebbe scattato un contributo a carico delle stesse aziende. La notizia era dirompente perché stravolgeva l'intera idea del Jobs Act come un aiuto alle aziende, tant'è che a un certo punto ha dovuto intervenire sia il premier Renzi che il ministro Poletti per smentire che le cose fossero veramente così. Ma allora il Sole 24 Ore titola: Jobs Act, dietro front sull'aumento dei contributi. E vi leggo il commento di Fabrizio Forquet, che è uno dei vice direttori del Sole 24 Ore, perché questa vicenda ha appunto mostrato come a volte le leggi vengano forse presentate e promulgate troppo in fretta e poi si scoprano dei pasticci che fanno fare veramente delle figure orrende a chi le ha scritte e a chi le ha presentate. Allora il titolo: se l'Italia non sa più fare le leggi. È un bene che Renzi sia intervenuto dopo la denuncia del Sole 24 Ore, dando l'indicazione di cancellare la norma truffa sull'aggravio dei contributi per dare copertura finanziaria alla decontribuzione. Un assurdo che si fa fatica anche a raccontare, ma che qualche tecnico ha concepito e qualche politico ha avallato. Oggi possiamo dire che la questione specifica sia via soluzione, ma se non ci fosse stata la denuncia del Sole, quanto avrebbe camminato quella norma? E soprattutto, come è possibile che nell'attività legislativa si producano disposizioni tanto incoerenti? Come si è potuto ridurre così il cantiere delle norme? Quando è accaduto? Di chi è la responsabilità? Ieri era tutto un rimpallo di colpe tra tecnici e politici, ognuno con le sue ragioni, tutti con i loro torti, perché nessuno, dirigenti, capi di gabinetto, politici di ogni livello, può dire io non c'entro. In Italia da troppo tempo si scrivono pessime leggi, incoerenti al loro interno con la legislazione vigente, italiana ed europea, volutamente incomprensibili e piene di rinvii a successive norme attuative, per non parlare delle finte clausole di salvaguardia, che sono un modo truffaldino di rinviare i nodi politici sulle coperture. Non c'è da sorprendersi poi se riforma dopo riforma il sistema Italia resta bloccato e inefficiente. Verrebbe da chiedere un time out. Prima di fare le riforme, riformate il modo di fare le riforme. Questo è il commento di Fabrizio Forquet. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche uno schemino che ci ricorda che domani c'è in edicola una nuova versione del Lunedì, come ci spiegherà sicuramente anche Mauro Meazza domani insieme ad Alessandro Milan, ma appunto le sorprese sono le troverete domani, è rinnovato graficamente ma anche nei contenuti. E poi per quanto riguarda l'appuntamento della domenica, che segnalo sempre, la lettera al risparmiatore, questa settimana Vittorio Carlini si occupa di EMAC, che è un'azienda della meccanica, analizza, come sempre sapete, Vittorio Carlini, il bilancio nel dettaglio per cercare di dare un consiglio agli investitori. Sono sempre aziende quotate, in questo caso il titolo è l'M&A e più efficienze per spingere il business, quindi EMAC punto a merger and acquisitions, quindi potrebbe appunto acquisire altre aziende del settore. Il Messaggero ha un titolo, stessa foto ancora da un'angolazione diversa, in questo caso Obama e Raul Castro si guardano negli occhi, quindi forse questa è la foto che preferisco. Il titolo: Obama-Castro, la stretta di mano che mette fino alla guerra fredda. E poi c'è un approfondimento sugli statali, blocco degli aumenti, redditi minimi dal tesoretto, appunto ne abbiamo sentito parlare tanto, ci sarebbe questo modo di recuperare 1,6 miliardi, però non è ancora stato deciso come usarli, anche se tutti sembrano orientati a usarli comunque in qualche modo per aiutare l'occupazione. Non previste nel DEF risorse aggiuntive per i dipendenti della pubblica amministrazione, questo un po' lo scoop del Messaggero. La Stampa, anche qui la stessa foto, in questo caso è però quella dove Raul non guarda negli occhi Obama, addio all'ultima guerra fredda, anche qui moltissimi commenti. E qui in questo caso l'intervista però della Stampa di oggi è al ministro dell'economia Padoan, che cerca di, e il giornalista che lo ha intervistato cerca di fargli, Alessandro Barbera, alle pagine 2-3, cerca di fargli, di estorcergli appunto come verrà usato questo bonus. E semplicemente la risposta un po' sibillina di Padoan è: potrebbe andare al sostegno dei redditi bassi, ma dice Padoan sempre ancora molto spazio per tagliare gli sprechi. L'Avvenire naturalmente apre sul fatto che ieri è stata pubblicata la bolla che indice l'anno santo voluto da Papa Francesco, la nostra strada della misericordia, e Papa Francesco ieri ha spiegato come verrà articolato l'anno santo, che si estenderà a più chiese, più città possibili, e poi ha fatto anche un intervento sulla corruzione, la chiamata piaga putrefatta della società. Libero e Giornale aprono entrambi sulle tasse. Libero: tasse superato Monti, l'Istat smentisce Renzi, la pressione fiscale è salita al 43,5%. C'è un'analisi per dar conto di questo numero, perché secondo il Libero addirittura si arriverà in quest'anno al 44,1%. Il Giornale: arrivano 63 miliardi di tasse e quella del tesoretto viene chiamata la truffa. Ci lasciamo un attimo per una breve pausa, in cui c'è anche il meteo, anche se oggi è una bella giornata ovunque. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. In primo piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli, bentornati alla rassegna stampa. Stavamo guardando le prime pagine, avevamo scorso tutte quelle dei principali quotidiani. Il Fatto Quotidiano ha un titolo completamente diverso dagli altri, perché lo scoop del Fatto Quotidiano è che i tesorieri di Partito Democratico, Forza Italia, Lega, NCD, SEL e Fratelli d'Italia, Scelta Civica si sarebbero riuniti per architettare quello che il Fatto Quotidiano definisce il gran ritorno al passato del finanziamento pubblico, anche se secondo un'indagine del Foglio gli italiani non ne vogliono sapere, solo 0,4 contribuenti su 100 hanno devoluto il 2 per 1000 delle tasse appunto ai partiti. Poi c'è naturalmente anche un titolo sulla questione che abbiamo visto soprattutto sul Sole 24 Ore, delle regole per la decontribuzione e sul finanziamento, quindi il governo contro l'INPS, sul flop dei neoassunti. E poi vi segnalo il contatore del Fatto, che è molto divertente, il Fatto ha questi quattro numeri che contano i giorni che sono passati da quando sono stati denunciati alcuni fatti, ma non è successo niente. Per esempio, sono passati 47 giorni da quando il Fatto ha denunciato i vitalizi ai parlamentari condannati, che appunto lo percepiscono ancora. E poi pensate, 9.655 giorni dalla convenzione antitortura ratificata dall'Italia senza introdurre il nuovo reato. Qui sappiamo che si sta ponendo rimedio, perché dopo la condanna della Corte Europea di Strasburgo per appunto quello che è successo al G8 di Genova alla scuola Diaz, finalmente si sta ridiscutendo la legge sulla tortura, quindi forse quel contatore settimana prossima non lo vedremo più. La prima pagina del Manifesto ha, secondo me, la foto più bella di Raul Castro e Barack Obama. Barack Obama sorride, Raul Castro solleva il suo pugno e il titolo è Il rosso e il nero. E poi è bello perché nel sommario viene citata una frase di Obama che veramente, secondo me, è significativa. Obama ieri, appunto, al vertice delle Americhe a Panama ha detto: non mi interessa combattere battaglie iniziate prima che io nascessi, ho chiesto al governo la fine dell'embargo. E poi la Gazzetta dello Sport, perché sapete, ieri c'è stata questa grande sorpresa, il Parma, una squadra fallita, ha battuto per 1-0 la Juventus, e allora la Gazzetta dello Sport titola Uomini veri, onore al Parma. E poi c'è un titolo anche per l'Inter, che ha finalmente ricominciato a vincere. L'Inter riparte a Verona, scusate se sorrido, forse qualche ascoltatore se lo ricorda, sono interista, quindi soffro ovviamente per come sta andando l'Inter questa stagione, però adesso sono contento dopo la partita di ieri. I nereazzurri non vincevano dal 23 febbraio, ieri appunto hanno vinto 3-0 fuori casa a Verona contro il Verona. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali. C'è, a proposito, abbiamo visto l'intervista a Repubblica del Rio, che è neo ministro delle infrastrutture, fa grandi promesse, e intanto c'è la notizia che ieri si è sbriciolato un altro viadotto stradale in Sicilia. La Sicilia è spaccata in due tra Palermo e Catania, in questo momento servono 4 ore, e il governatore della Sicilia Crocetta ha detto che ci potrebbero essere anni di paralisi per ricostruire questi danni. Poi una pagina curiosa, io non ho figli però credo che l'argomento interessi molto, Marta Serafini cerca di dare tutte le ragioni pro e contro per dare un telefonino ai bambini molto piccoli. Il telefonino all'asilo, vantaggi e rischi dello smartphone per i bimbi di 3 anni. Io credo che chiunque abbia visto un bambino maneggiare un telefono, per quanto piccolissimo, vede che lo maneggia benissimo. Ecco, però questo basta per darglielo, cioè il fatto che sia molto disinvolto nel maneggiarlo, e ci sono appunto tutti i pro e i contro. E poi un altro approfondimento di Danilo Mainardi, sapete, l'etologo che a volte aspetta qualche giorno per commentare magari fatti che sono successi nel mondo animale. In questo caso commenta la notizia di 2 giorni fa di quel fotografo che si chiama, un fotografo freelance, Atif Seed, un fotografo freelance in Pakistan, che ha fatto una foto a un leone e sembra veramente che il leone, anzi probabilmente il leone stava, forse aveva anche idea di sbranarlo, poi in realtà non l'ha fatto, però lo scatto è proprio quello di un leone che sta per sbranare una sua vittima. E allora Danilo Mainardi analizza un po' questa ancestralità del gesto del leone. Il re della foresta immortalato mentre attacca il fotografo restituisce la realtà del predatore, edulcorata dai cartoni, perché naturalmente siamo abituati anche a vedere il re leone e tanti altri leoni tra virgolette buoni. Ecco, questo è il vero leone. Dalle pagine interne della Repubblica tanti approfondimenti, come vi dicevo, sulla questione sullo storico disgelo tra Stati Uniti e Cuba. A pagina 3, per esempio, Alessandro Oppes ha intervistato lo scrittore Luis Sepúlveda, e il titolo della breve intervista è: quella stretta di mano è un segnale, ora il regime inizi il cambiamento. Vi leggo soltanto una domanda: nel corso dell'ultimo secolo Washington ha appoggiato un gran numero di governi autoritari del continente quando non è stata responsabile diretta di golpe. In un'America Latina a maggioranza democratica è possibile costruire un tipo di relazione nuova con gli Stati Uniti? E torniamo anche all'articolo che vi segnalavo di Sergio Romano, che allargava appunto l'orizzonte non alla sola Cuba ma all'intera America Latina. Dal XIX secolo, dall'epoca delle indipendenze, i paesi latinoamericani hanno cercato di mantenere rapporti da pari a pari con gli USA, basati sul mutuo rispetto, la cooperazione e la non ingerenza negli affari interni. Purtroppo gli Stati Uniti non hanno mai rispettato le regole del gioco e la loro politica estera di chiara impronta imperialista ha considerato il continente americano il cortile di casa. Il loro, suo mozzo, è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana, con cui si riferiscono alla loro difesa dell'ex direttore del Nicaragua, fu il modus operandi degli USA per oltre un secolo. Però questo è il passato e ora Sepulveda dice si apre veramente una nuova era. Vi dicevo l'intervista a Graziano Del Rio, la trovate a pagina 6 e 7 di Francesco Bei della Repubblica. Vi leggo un passaggio, visto che abbiamo parlato del viadotto che divide in questo momento Palermo da Catania. Intanto nel paese che ha costruito la cupola del Brunelleschi bisogna farsi il segno della croce quando si attraversa un viadotto. Possibile che all'ANAS non cambi nulla? Eppure Renzi aveva promesso un repulisti a partire dal vertice. E qui Del Rio mostra la sua grandissima diplomazia e risponde che dentro le strutture un ricambio faccia sempre bene è fuori discussione. A questo governo si può imputare tutto tranne la timidezza nell'affrontare il cambiamento. Quando arriverà il momento dei rinnovi valuteremo. E poi un'altra domanda a cui Del Rio risponde con grande diplomazia: lei è un alto papavero del PD emiliano e nel suo partito, dopo lo scandalo della COP CPL Concordia, si è aperta una diatriba tra dirigenti e amministratori sull'opportunità di restituire i contributi leciti ricevuti. Lei cosa farebbe? Non vedo nessun obbligo o automatismo, perché il finanziamento privato alla politica esiste in tutta Europa e noi abbiamo abolito quello pubblico. Certo, se uno scopre a posteriori di aver ricevuto un contributo da una ditta della Camorra, mi sembra il minimo che restituisca. La Concordia è una delle più grandi e antiche cooperative emiliane. Chi poteva immaginare? Ma proprio per rispetto alla storia della cooperazione va fatta a piena luce. E poi vi segnalo una pagina intera di Francesco Merlo, era un po' che non lo leggevamo la domenica, su tutte le alleanze e le rotture che ci sono in vista delle regionali di maggio. Naturalmente, le sapete, si voterà in Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Umbria, Puglia e Marche, e il caso più eclatante naturalmente è quello della Puglia, sapete, con tutta la spaccatura all'interno di Forza Italia, però non è l'unico caso e Francesco Merlo ce le riassume nel suo solito, secondo me, molto gustoso. Il titolo della pagina è: dai forzisti di sinistra all'ex PD scelto dalla destra, le regionali diventano il Kamasutra dei cacicchi. E vi leggo l'ultima parte. Va detto che a dispetto della geografia e dell'antropologia si somigliano Raffaele Fitto, Vincenzo De Luca, i rivali del PD genovese Raffaela Paita e Luca Pastorino, il veronese Tosi che ha spaccato la Lega e si è alleato con Alfano. Nel mondo della precarietà e dell'incertezza questi notabili assicurano una contabilità elettorale che sposta gli zero virgola. Ricordano quelli che nei villaggi russi di fine Ottocento contavano le anime, vive e morte. E nella traduzione italiana le anime sono le clientele, i favori, un dominio locale vero che ha resistito alla stagione del potere solido che, come voleva Marx, si è dissolto nell'area della comunicazione. I signori del Kamasutra sono l'Italia profonda della provincia, dei bar che si riempiono nel pomeriggio, l'Italia che se ne infischia della TV, di Twitter e spesso anche della lingua, e che non a caso è quella dei mille soprannomi di Gigino a manetta, sapete il soprannome del sindaco di Napoli, e tanti altri. Su tutti questi contorsionisti dell'intreccio politico giganteggia Vladimiro Crisafulli, che, assolto, si candiderà con le insegne del PD a sindaco di Enna, nonostante l'alto là di Deborah Serracchiani a nome di Matteo Renzi. Crisafulli si sarebbe candidato anche se fosse stato condannato. Ha infatti dichiarato a Carmelo Caruso per Repubblica di Palermo: a Enna il PD è mio e non solo il PD. A Enna io sono nello stesso tempo Peppone e Don Camillo. E vabbè. Torniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, perché se volete appunto rifarvi una chiara idea di quello che è successo e di questo pasticcio sul Jobs Act e sulla decontribuzione, a pagina 3 trovate tutto il riassunto di Davide Colombo e Claudio Tucci, stop del governo all'aumento dei contributi. Dal Messaggero vi segnalo infine, sempre su Cuba, forse lo schema riassuntivo più bello, più chiaro, più breve sulla storia un po' del disgelo, quindi dalla rivoluzione al disgelo, le tappe della crisi dal 1959, quando i rivoluzionari entrarono a L'Avana e appunto iniziò la rivoluzione cubana, fino a ieri con la stretta di mano a Panama tra Barack Obama e il presidente Raul Castro. Dall'Avvenire, che come sempre ha attento alla politica estera anche quando gli altri giornali magari non se ne occupano più di certe questioni. Un approfondimento sul Kenya: il Kenya sfratta i profughi, 3 mesi per il trasloco, e infatti ha dato un ultimatum alle Nazioni Unite: il Kenya venga trasferito in Somalia il campo di Dadaab, e pensate con quali conseguenze per tutti i profughi che ci vivono. Ci fermiamo un attimo per il traffico e ci risentiamo per l'ultima parte. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali, vi segnalo dalla Stampa 2 pagine. Una molto bella, la pagina 9, dicevamo di queste foto della stretta di mano tra Raul Castro e Barack Obama. Ecco, a pagina 9 della Stampa vengono pubblicate altre 6 foto di altrettante famose strette di mano, quelle strette di mano che hanno cambiato la storia. Dal saluto cordiale di Hitler all'inglese Chamberlain, era il 1938 e ancora non si poteva forse pensare che Hitler poi avrebbe invaso la Polonia con tutto quello che poi seguì, fino al patto a 3 che pose fine alla Seconda Guerra Mondiale, quindi la stretta di mano tra Churchill, Truman e Stalin nel 1945 a Potsdam, e poi a Berlino quando Kennedy e Khrushchev si strinsero la mano, e poi nel 93 quando Yitzhak Rabin e Yasser Arafat si strinsero la mano alla Casa Bianca grazie alla mediazione di Clinton, e poi la pace in Irlanda del Nord con Martin McGuinness, ex terrorista, che stringe la mano alla regina Elisabetta, e infine Cina e Giappone, la grande riconciliazione nel 2014. Questa è una foto molto significativa, davvero, a volte una foto dice più di 1000 parole, con il premier giapponese Abe e il presidente cinese Xi si stringono la mano, non si guardano negli occhi, infatti il commento alla foto è: i due sono tutt'altro che convinti. Vi segnalo dalla Stampa anche un approfondimento di Federico Varese, che ha fatto un viaggio in Romania a Râmnicu Vâlcea, che è una città della Romania, e questa città è la tana degli hacker che truffano il mondo. Un viaggio Federico Varese è docente di criminologia al Nuffield College di Oxford, ha fatto questa inchiesta e ha scoperto appunto che questa è la capitale delle frodi su internet, c'è un boom di siti ad hoc e di money transfer. Dalle pagine interne del Fatto Quotidiano, ogni domenica c'è un'intervista in generale su 2 pagine molto approfondita. Oggi è Sergio Caputo, un cantante che ha fatto un po', insomma, ai più giovani forse non dirà molto, però ha sicuramente segnato tante generazioni. Il titolo dell'intervista: 1000 notti da vampiro sotto le stelle di Roma, però adesso ho perso il vizio, racconta un po' tutta la sua storia di cantautore. Ma veniamo ai supplementi culturali, e naturalmente iniziamo come sempre dal nostro, la domenica del Sole 24 Ore, e come sempre iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola La gente, e la citazione è dai Peanuts. Io amo l'umanità, è la gente che non sopporto. Linus e Snoopy, scrive Ravasi, lo devo confessare, mi hanno divertito anche da adulto, e non solo quando ero giovane e apparivano da noi le prime strisce di Charles Schulz, il disegnatore americano morto nel 2000. Quanta semplice e modesta verità c'è in questa confessione del protagonista di quel fumetto, ma anche quanto realismo. Parole nobili affiorano senza fatica quando si proclamano principi, meschinità e grettezza dominano poi l'agire concreto. Un collega agertino di Schulz, il chino creatore della petulante e deliziosa Mafalda, rimodulava la tesi in modo ancor più decisivo. Amare l'umanità non è una gran fatica, è amare l'uomo della porta accanto. È sul pianerottolo del condominio che si verifica l'autenticità di uno spirito generoso e caritatevole, o almeno il garbo e il rispetto nei confronti del vicino o di chi hai accanto in ufficio tutto il giorno. Poi la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24 e Il Sole 24 Ore, prende spunto da una lettera che gli ha inviato Giovanni Rosmini, che è un imprenditore che si occupa di abbigliamento e che denuncia tutte le difficoltà del dover lavorare, del voler continuare a fare l'imprenditore in Italia, e il titolo è La solitudine del signor Rosmini e l'aiuto che serve. Rosmini chiede aiuto, ma il nostro direttore napoletano dice appunto: in realtà non avreste bisogno di aiuti nel senso più classico del termine, avreste semplicemente bisogno di un paese normale, che speriamo presto ci sarà. Naturalmente vedrete tanti altri approfondimenti dal domenicale, poi si può fare con Alessi Maurizi. Comunque il titolo della copertina è Hitler e i fisici della zona grigia, e prende spunto da un nuovo libro di Philip Ball, che è uno storico della scienza bravissimo. Questo libro, appena pubblicato da Einaudi, si intitola Al servizio del Reich, come la fisica vendette l'anima e Hitler. Nell'analisi di questo storico, accanto ai Nobel dichiaratamente antisemiti come Leonard e Stark, c'erano anche le posizioni ambigue di Planck, Debye e Heisenberg. Dalla lettura del Corriere della Sera, la copertina è di Ercole Pignatelli, sapete che ogni settimana la copertina viene data a un artista, e poi all'interno due pagine di Pierluigi Panza, un'anticipazione un po' su Expo, il titolo Segnali dell'umanità, le incisioni rupestri, le poesie del mondo, ecco come sarà il padiglione zero di Expo. E Davide Rampello, ex direttore della Triennale, presenta appunto questo padiglione zero che accoglierà i visitatori, e c'è una striscia con i primi segni grafici impressi sull'uomo dall'uomo sulla roccia, testimonianza della capacità di elaborazione del pensiero, e poi c'è un pannello con le liriche di 10 giganti delle lettere, testimonianza della potenza della scrittura. E qui ci sono appunto c'è Dante, c'è Virgilio, ma ci sono anche c'è un poeta russo come Pushkin, un poeta indiano come Tagore. Poi l'infografica, sapete, la pagina dedicata ai visual data del Corriere della Sera, per scoprire qual è la lettera più usata. Ecco, la prima lettera in tutte le lingue europee è la E, la vocale E. In Europa il suono impiegato non è la A, come forse si potrebbe pensare, e tutto questo è illustrato in un bellissimo grafico che trovate a pagina 11, poi con il commento di Giuseppe Antonelli. Un interessantissimo progetto di riqualificazione in Africa, il titolo è 4 mm di progresso, se ne occupa Stefano Bucci, è un progetto voluto da un architetto che verrà presentato domani al Four Seasons Hotel, tra l'altro con il supporto di un'azienda italiana di gioielli che è Vernier, e spiegherà questo progetto. È un progetto di un architetto per riqualificare un insediamento in Sudafrica, e pensate, si possono ricostruire case in un giorno solo con un sottile rivestimento, niente mattoni, alluminio e materiali biocompatibili. Tra l'altro questo architetto è stato anche Leone d'Oro a Venezia, quindi alla Biennale di Architettura, perciò insomma uno che sa il fatto suo. Molto interessante l'approfondimento della domenica di Repubblica, che cosa resta di un Expo, dove Federico Rampini, e c'è anche un'intervista a Renzo Piano, cerca di capire di tutte le Expo degli anni passati, e la prima fu nel 1851 a Londra, quindi ce ne sono state tante, che cosa poi si fa di queste grandi opere, di questi grandi edifici, come li si riutilizza al meglio. Le interviste straparlando della Repubblica, quelle su due pagine di Antonio Gnoli, oggi è un'attrice di teatro famosissima, Giuliana Lo Iodice, che racconta il suo amore per il teatro, ma anche gli uomini della sua vita. E infine il supplemento del Messaggero Macro, un pochino più leggero, tutte le trasgressioni, belli e dannati, trasgredire paga, i giovani come Justin Bieber, l'ultimo trasgressore, ma anche Miley Cyrus, ma poi naturalmente si va indietro nel tempo con i grandi trasgressori più famosi come Mick Jagger. Era veramente l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ma ci sono tantissimi approfondimenti interessanti nei giornali di oggi. Ringrazio Barbara in regia, e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.